24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Anestetizzati da decenni di talk show dove ci si scontra tra parti politiche, dimentichiamo quello che siamo. Prima di tutto siamo l'Italia, portatrice sana di bellezza e costruttrice di capacità, di civiltà e di ideali. Se non ripartiamo di qui, l'Europa non ha futuro e l'Italia non ha ruolo in Europa. Oh, cari italiani, siamo l'Italia, destatevi! Così dice Matteo Renzi mentre inizia ufficialmente la 72esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché decisiva per l'abolizione delle province. Ovviamente, destatevi italiani e, come dico io, anche razza di debosciati, che sono già le 6:34 minuti del mattino. E questa è 24 mattino, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Salutiamo anche i ragazzi rossoneri in vetta alla classifica, voglio subito farlo sapere a Marione Adinolfi. Mario Adinolfi, buongiorno Marione. Buongiorno, sai che domenica c'è lo sconto diretto. È sabato, per la verità, è sabato. Sabato c'è lo sconto diretto. Siamo primi noi. Goditi sei giorni. Mamma mia, l'arroganza degli juventini, tutti così che mi scrivono: sì sì, poi sabato vi battiamo. Quanto siete arroganti, mamma mia, solo perché... Siamo a Juve, fino, non è che siamo arroganti, siamo a Juve. Siamo consapevoli. Vabbè. Allora, ma no, Marione, ti devo presentare subito un nuovo ingresso al Parlamento che voglio subito aprire. Apriamo il Parlamento, forza. Perché c'è una novità. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento. Allora, Marione Adinolfi, voglio subito presentarti Chicco Testa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ma Chicco Testa segue il calcio? Sono juventino, mi dispiace per te. Ma infatti, porca miseria, lo sospettavo. Sono circondato. Tra l'altro devo dare... Essendo un provinciale, sono juventino. Caro Marione, caro Chicco Testa, devo dire una cosa. Ho scoperto ieri, sarà un convegno, sabato sera non vedrò la partita. Eccola là. Un po' di bel calcio, poi guardare martedì sera la televisione, no? Martedì che succede? C'è la Coppa. Che Coppa? La Coppa e Campioni, la Champion. No, ne abbiamo già vinte un pochino, non ci interessa. No, anche questa, Marione, quando l'ho detto ieri, tutti, vabbè, ti faremo sapere noi quanto abbiamo vinto, tutti, siete arroganti, questa è la verità, gli juventini sono arroganti, questa è i tifosi della Juve, insomma. Vabbè, questo è, da dove iniziamo? Avete sentito che Renzi dice... alzate la testa, cari italiani, ma non Chicco Testa, alzate la testa, destatevi. Però il dato di fatto, se uno legge i giornali, è che rischiamo l'ennesimo commissariamento. A me, Chicco Testa, come andrà a finire questo duello con l'Europa? Beh, io il commissariamento me lo toglierei dalla testa, no? Perché ammesso anche che Renzi dica: no, sentite, alcune cose non le possiamo proprio fare, io ho bisogno di un po' di tempo e ho bisogno soprattutto di un po' di soldi da dare agli italiani, eccetera, eccetera. Ma che può succedere? Cioè, forse questa cosa del commissariamento, della troica, eccetera, eccetera, sono fatti un po' sopravvalutati, no? I giornali italiani sembra che ogni minuto l'Italia finisca in amministrazione controllata. Non è così, è successo in Germania, è successo in Francia, ma io spero che Renzi ce la faccia a stare dentro i parametri europei. Ma insomma, non mi fascerei eccessivamente la testa, no, per questo. E che dobbiamo fare, però? Guardare l'Europa così con... No, mi pare che Renzi da questo punto di vista abbia scelto abbia fatto una scelta giusta, dice: sentite ragazzi, noi vogliamo fare le riforme, tagliamo le spese, eccetera eccetera eccetera, però c'è una recessione che riguarda un po' tutta l'Europa, o capite che oltre al rigore ci vuole anche una politica di investimenti, di allargare un po' i cordoni della borsa, aumentare l'inflazione, ridurre il peso dell'euro che penalizza enormemente le nostre esportazioni, o altrimenti così non si può andare avanti. Non si può andare avanti. Lo so, però ancora, no, Mario, hai sentito che Renzi dice: le faremo noi le riforme, nessuno ci imporrà niente, no? C'è un Renzi che sta dicendo in questo momento agli italiani: forza, forza, che siamo noi a doverci tirare fuori dalle... Oggi poi uno legge il Sole 24 Ore, dice: i consumi delle automobili come 35 anni fa, l'edilizia come 50 anni fa, questi dati dell'Istat, l'inflazione per la prima volta siamo in deflazione d'agosto. Insomma, Mario, come finirà? Qua tu ci dici sempre che Renzi può fare l'imperatore, ma lo faccia, no? È caduto. È sempre nuovo, eh? Mi senti? Sì, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Il debito pubblico, il compenso, c'ha un dato sempre nuovo, che è sempre più alto. Insomma, questo è... appunto, ecco, non ho... Io lo dico francamente, lo sai che sono un fan di Matteo Renzi, e non è che dico che è stato eletto oggettivamente imperatore, perché può fare quello che vuole. Quindi, detto questo, io tifo Troica, da sempre tifo Troica. Si sa. Tifo Troica, cioè io magari arriva al commissariamento, il problema è che non arriva, questo è il vero problema per l'Italia, ma magari arriva al commissariamento. Con queste, con le cifre che hai snocciolato, aggiungerei il crollo della produzione industriale, sì, aggiungerei la disoccupazione, cioè con queste cifre noi siamo già da libri in tribunale, quindi è ovvio che insomma, o arriva un intervento esterno serio ma perché non siamo in grado di fare le riforme? Ma cosa lo impedisce? Perché sono impopolari. Allora, ho capito, ma sono impopolari. Ma infatti oggi allora, Galli della Loggia sul Corriere scrive: adesso basta, cioè Renzi politico, faccia nomi, cognomi di chi frena, basta questa cosa, i gufi, ma non è rosiconi, nomi e cognomi di chi frena. Matteo, come qualsiasi altro politico, ha bisogno di consenso per vincere le elezioni. La Troica non avrebbe bisogno di consenso, perché non gliene frega niente le elezioni, ma le ha vinte, cioè per tre anni adesso, l'abbiamo detto varie volte, può fare quello che vuole, e allora non può fare cose che gli fanno regredire il livello di consenso, capisci? Allora, siccome quello che serve in Italia, e lo dico da tempo, è intervenire sulla carne viva, cioè su pensioni, sanità, scuola e stipendi della pubblica amministrazione, che si mangiano quasi 600 miliardi degli 800 che spendiamo ogni anno, e che sono una marea di soldi, troppi soldi. Se non intervieni lì, e tu pensi che ogni volta la spesa per la sanità aumenta in 10 anni di 20 miliardi, la spesa per le pensioni è arrivata a 300 miliardi, e dici che così va bene, e porti l'Italia al disastro. Ho capito, se non insomma... intervieni lì, devi intervenire lì. Però la ciccia è lì. Ho capito, però non lo può fare. No, Chicco Testa, il meccanismo è questo: non lo può fare perché sennò perde il consenso. Allora, No, io non credo che il problema sia il consenso. Cioè, io credo che Renzi sia disposto a perdere il consenso. Anzi, Renzi fa una scommessa molto chiara. Pigliamo questa questione della sanità, no? Allora, tagliare del 2-3% le spese della sanità, lo sappiamo tutti, è possibile, è possibilissimo, no? Per non parlare di quelle dell'amministrazione pubblica, perché lasciamo perdere, diciamo, no? E Renzi sa benissimo che se lo fa forse avrà contro Maroni, Zaia, eccetera, eccetera, ma dalle sue, secondo me, la maggioranza dei cittadini italiani. Sì. Il problema sono, secondo me, la farraginosità, la complicazione, la resistenza dei sistemi decisionali italiani, che sono una cosa drammatica, credo che Renzi lo stia scoprendo, lo scoprì Nenni all'inizio degli anni 60, che non esisteva la famosa stanza dei bottoni, il posto in cui tu schiacci un pulsante e risolvi un problema, e devo dire che 40 anni dopo le cose sono ancora più complicate, con tutto quello che ci abbiamo da fare, pensa a te, che sono, non so, 10 o 15 giorni che il Parlamento italiano si esercita nel tentativo di trovare due giudici di corte costituzionale. Ah, beh, questa è fantastica. Questi sono gli argomenti che interessano ad Adinolfi e a tre politici. La scelta dei giudici. Il Parlamento è bloccato, e questo a me non me ne importa, voglio dire. Lasciamo perdere i due giudici di corte costituzionale, che pure sono importanti. No? Sì. Il fatto è che il Parlamento si occupa solo di quello. Ma no, ma è chiaro, è bloccato su questo. E Adinolfi, tu seguirai tutto nelle pedine. Come sai, io sono appassionato solo di tre questioni: riforma elettorale, riforma del Senato e elezioni dei giudici. Cioè, è proprio uno che si occupa degli interessi degli italiani. Insomma, sono cose che a colazione. Per interessarsi agli interessi degli italiani dovresti fare quello che ti ho detto che devi fare, cioè massacrarli. Devi fare. La verità è questa: finché non ci metteremo in testa che questa è l'unica cosa che devi fare, perché altrimenti non ne esci, perché gli italiani stanno vivendo sopra le loro c'è un'altra cosa da fare. Devi massacrarla, hai capito Adinolfi. Meno male che è rimasto parlamentare poco, caro Chicco Testa, perché sennò questo di parlamento. Però è una voce interessante. No, ma certo che è una voce interessante. Devi massacrarli. No, c'è un'altra cosa da fare. E cioè? Ma anche questa non è una grande novità, perché sennò sarei io il presidente del Consiglio, però la burocrazia. Attenzione, sì. È inutile che continuiamo a prendercela con i burocrati, perché se noi continuiamo a produrre norme, leggi, regolamenti, proibizioni, certificazioni, autorizzazioni, e beh, poi i burocrati fanno il loro mestiere, qualcuno lo fa onestamente, qualcuno magari ne approfitta per mettere dei veti, ma se per costruire un'abitazione o per ristrutturare una cosa ci vogliono 10, 12, 15 permessi, adesso c'è la storia per esempio sui giornali finita di questa signora in Puglia che voleva fare... Sarà nostra ospite alle 8:15, come facevi a saperlo? Come facevi a saperlo? Bisogna delegiferare, bisogna dare la possibilità agli italiani di tornare a lavorare. Ma su questo non c'è dubbio, su questo. Però io una cosa dico, quando hai toccato la questione della sanità, per me Maroni e Zai adesso mi daranno del leghista, ma chi se ne frega, ma fanno bene a dire sciopero fiscale, ma se in Veneto e in Lombardia la sanità, i conti sono a posto, ma perché devo pagare i conti disastrati, che ne so, della Calabria dal punto di vista della sanità, o no, Adinolfi, cioè... Perché siamo un paese solidale, ricco nazionale, però eravamo tutti la nazione Lombardia, la nazione Veneto. Ho capito, ma con questo principio... Sei dentro la mia logica, sei dentro la mia logica. Perché quello che stai dicendo tu è che la sanità calabrese, che produce solo danni all'erario, non andrebbe aiutata. Ma non è che non andrebbe aiutata, ma ho capito, ma con questa logica non andrebbe. La logica è logica, però io sto con Zaia e poi però voglio aiutare la Calabria. Una delle due devi scegliere. Io ho capito, Adinolfi sta con l'Europa che spera che vi diano una Champions League, ma non funziona così, la dovete vincere. Non è che stai con l'Europa, vi danno la Champions League a maggio. Voglio la troica, governi la troica. La troica, panzer divisione ad invadere l'Italia. Il Portogallo come è rinato dopo gli hanno dimezzato gli stipendi pubblici. La Grecia è stata promossa da Standard & Poor's visto. Vabbè. Dopo gli ha chiuso la Rai alla Grecia, ripartita la Grecia. Hanno preso la saracinesca, boom. Salutiamo tutti gli amici colleghi della RAI, ovviamente, Allora, dobbiamo andare al traffico, poi c'è il pezzo forte, quello preferito da Maria Adinolfi, che voglio anche introdurlo a Chicco Testa, è la segreteria telefonica dei nostri ascoltatori. Anche i giornalisti a casa. 24 mattino. E non ti azzardare, capito, a fare dell'ironia sull'orsa. Anche ieri ho sentito parlare D'Alema, ancora esiste, è una cosa gravissima. Renzi doveva fare pulizia, ma non mi sembra che l'abbia fatta. Feltri dice che Renzi ha guadagnato 200.000 voti con i precari, ma potrebbe aver anche perso 3 milioni di voti sui lavoratori statali. Grazie. Caro Milan, il problema della burocrazia non è la burocrazia, il problema della burocrazia sono i burocrati, presi e messi lì a non fare quel che dovrebbero, la gente che non fa quel che deve, cioè i politici. Al fungaiolo auguro una pipita sulla lingua che gli duri almeno un anno, così vedremo come farà a mangiare ancora i funghi. E i miei auguri di solito arrivano sempre puntuali. Oddio, il sindaco di Padova ci vorrebbe a Roma. A Roma c'è un degrado da spavento, da schifo, da schifo. Ha ragione il sindaco di Padova. Io parlo da Viareggio ed è giusto che le persone a torso nudo non camminino, anche se è una zona balneare. Quando parli, che leggi giornali, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu, tu puoi cambiare il mondo, tu, e poi con quella voce martellante che ti prende dal cervello, ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! Capito, Adinolfi, ce n'è anche per me. Ma era per te, esatto. No, certo che era per me, non ho capito. Parla dell'orsa, non azzardarti, mi raccomando, l'orsa, ah, è l'orso nudo. L'orsa. Ti rendi conto avevamo... le cazzate che hanno in testa quella di ascoltatori? No, no. E poi Renzi, che ovviamente il new Berlusconi e Renzi hanno stati 20 anni a Di Berlusconi. Chicco testa, Mario Adinolfi odia il mio pubblico e questa è una cosa insopportabile per me, che lo invito, odia il mio pubblico. Comunque, hai sentito, Chicco, quello che ha detto? Il problema sono i burocrati, esattamente il contrario di quello che hai detto. No, sì, i burocrati sono un problema, ma i burocrati fanno il loro mestiere. Se si li armi con migliaia di norme, è ovvio che poi le usano. Chiaro, no? Allora, io però vorrei adesso porvi una questione molto seria, perché molti giornali aprono con questa cosa dell'ennesima decapitazione. Posso fare una piccola annotazione? Sì. Imparo dalla tua tuo notiziario che oggi c'è uno sciopero di 4 ore dei dipendenti del trasporto pubblico. Sì, romano. È vero, l'ho sentito. Esattamente, il contrario di quello che dovrebbe fare. Ma lo sciopero. Questi signori non rischiano il posto di lavoro, invece ci sono milioni di dipendenti di imprese private che rischiano il posto di lavoro, che non possono permettersi di fare azioni di questo genere. Avanti, e questo l'abbiamo detto tante volte. Ma la domanda che voglio chiedere in questi 2 minuti che ci rimangono è questa. Che fare, sapete che c'è tutta questione ora con l'ISIS, no? Il terrorismo, che fare, trattare o no? Questo è il tema, perché l'inglese, l'ultimo che è stato ucciso, era con questo italo-svizzero Federico Motka, per il quale pare l'Italia abbia pagato soldoni, e questo è l'annoso tema. L'altro giorno avevamo Lutwak a questi microfoni a dire bravi, pagate, è così il vostro spirito cristiano è sollevato, e loro continuano a rapirvi. Continuare a rapire italiani. Che fare, Chicco Testa? Bisogna pagare per liberare un ostaggio? No, non bisogna pagare. Non bisogna Lo dico pagare. Con grande tristezza, ma non bisogna pagare. Questo, Mario, tu che ne pensi? È molto complicato, di mezzo c'è la vita umana, quindi è una cosa troppo enorme. Dovremmo avere capacità di intelligence molto più radicate di quelle che abbiamo per poter individuare meglio anche i soggetti. Invece molto spesso noi paghiamo 2-3 volte. Ovviamente con i terroristi non si tratta, questa è una cosa che si sa, insomma bisognerebbe saperli individuare meglio. Credo che l'Occidente, da questo punto di vista, l'Occidente tutto debba fare di più. Credo che su questo gli americani e gli inglesi siano più seri di noi e stanno pagando prezzi dal punto di vista dell'orrore più cari di quelli che stiamo pagando. Sta di fatto che l'altra questione è chi contesta, che fare, andare a combattere, andare a bombardare, insomma è molto delicata questa vicenda che... Sì, però bisogna capire che è una guerra. E in guerra qualche volta servono i guanti bianchi, ma qualche volta anche i guantoni da box. E in questo momento servono i guantoni da box. C'è poco da fare. I guantoni da box. Quindi andare lì, cioè siamo sempre lì, tornare, bombardare, colpire. Il mondo purtroppo è fatto così, è fatto in maniera complicata. Il problema della sicurezza è un problema che si ripresenta continuamente. Chi pensa che il mondo possa vivere in pace semplicemente appellandosi alla pace non ha capito che cosa succede da 2000 anni a questa parte. Garantire la pace significa anche garantire un certo ordine e perseguitare i colpevoli, gli assassini, i delinquenti, eccetera, eccetera, come purtroppo è sempre stato

assisterci, almeno capire il progetto e mandarla avanti. Avanti. Ma cos'è la cosa più incredibile o terribile che lei ha constatato nell'investire in Italia? Proprio l'ostacolo che non le sembrava vero e che invece si è posto? Infatti abbiamo costruito e fatto un progetto molto bello in collaborazione con il comune locale. Abbiamo ricevuto tanti segni positivi, però ci sono sempre ostacoli a livello regionale che non riusciamo a superare. Oltre a quello, non c'è stata nessuna comunicazione positiva o prova di capire il nostro progetto e per aggiungere qualche collaborazione. Ma cos'è? È una questione di burocrazia? È la burocrazia il problema, secondo lei? O sì, molto profonda, sì. Un procedimento che non è chiaro, scritto e ben definito. Qual è la differenza maggiore che lei ha constatato tra investire in Italia e investire, che ne so, in Gran Bretagna o investire negli Stati Uniti? La grande differenza è che un investimento importante arriva agli altri posti. C'è dall'inizio almeno un certo interesse, no? Che è benvenuto, mentre non ho mai sentito nessuna interesse, almeno nella regione di Salento in Puglia. Quindi è proprio una questione di, come dire, c'è più una sorta di sospetto in Italia quando si vede un investimento, invece di dire allarghiamo le braccia a braccia aperte e vediamo di cosa si tratta? Non vogliamo che ci accettano senza domande, senza un discorso lungo per trovare una soluzione che va bene per tutti. Però infatti c'è sempre stato solo ostacoli e solo un perspettivo sì, molto negativo nei nostri confronti, sì. Anche se lei, anche nell'intervista al Corriere della Sera, ha detto non c'è mai stato chiesto denaro, cioè corruzione, questo no. Proprio no, questo no. Non c'è interesse nell'ascoltare quello che potrebbe essere un investimento da 70 milioni di euro. Sì, infatti, questo è vero. Che ne pensa, perché così adesso la faccio anche parlare con Alberto Forchielli, che ne pensa del governo italiano? Ha un'idea, l'idea di Renzi che possa in qualche modo scardinare la burocrazia? Sa che Renzi una delle cose che vuole fare è dire basta questa burocrazia italiana, o meglio scardinarla, secondo lei ce la farà? Io spero di sì, per l'Italia devo dire. Io ho ricevuto centinaia di messaggi da italiani da ogni parte d'Italia. Ho sentito anche il ministro Guidi che ha espresso il suo supporto e la sua voglia di almeno capire cosa è successo e ridefinire o cambiare la situazione per il prossimo investitore. Abbiamo anche ricevuto supporto dell'ambasciata inglese. Questo è una forte indicazione che almeno il governo di Renzi capisce la rabbia del popolo vogliono almeno rispondere. Insomma, un segnale, diciamo così, di speranza. Io però, Alberto Forchielli, adesso arrivi con i tuoi soliti giudizi urticanti. Hai sentito che Katainen vuole farci prendere la medicina? Questo è il concetto. Vorrei capire quando una persona di quel livello parla di medicina, cosa potrebbe alludere? Ma Katainen usa la katana per imporre tutti quei tagli. È un maestro di kendo, se non il kendo, sì. È uno che ha rigore. Katainen. Ma no, credo che Katainen voglia la riforma del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione, la spending review, la giustizia. Se tutto questo non bastasse, basta la parola, Falqui, Antonello Scotti, Docet. Difatti dopo andava anche a fare la Pomodoro. Speriamo di no, speriamo. Sì, ma perché non siamo in grado di farle da solo queste cose? Ce le deve dettare uno dall'Europa, dovete fare questo, quest'altro. Ma no, sono anni che ne parliamo, 40 anni, queste cose qui c'erano scritte anche sui libri di scuola quando io andavo all'università, negli anni 70. I problemi erano gli stessi, non è mai stato fatto niente. Devo dire che forse lo sconcerto è dovuto al fatto che qui se ne sono messe 20 in cantiere e non se ne cava una. Poi, quindi questo è un problema, sarebbe meglio farne una piuttosto che annunciarne 20. Poi quelle che sono in corso, che sono quelle del Senato, della legge elettorale, sono riforme che non interessano molto la Commissione europea. Per cui diciamo che il paese sta andando nella direzione opposta. Del resto il consenso per fare le riforme non c'è. Per cui Renzi cavalca quello che può cavalcare. Eppure si dice che Renzi può avere ha questo consenso popolare, almeno alle europee, potrebbe fare quello che vuole, no? Potrebbe. No, ma lui il consenso ce l'ha proprio perché non lo fa. Ah, il momento in appena cui fa lo parlerò, sì, beh, certo. Appena tocchi la spending review, che vuol dire toccare di fatto il personale, se no non se ne cavo ragno dal buco, appena tocchi l'articolo 18, appena tocchi la pubblica amministrazione, è un disastro, cioè, perdi. Sì. Io vorrei capire, Forchielli, qual è la differenza, l'ho chiesto anche a Alison Dayton, l'ho chiesto anche a te, qual è la differenza maggiore tra investire in Italia, investire in Cina, America, Germania, dove tu lavori, dove tu vivi, in giro per il mondo, qual è l'ostacolo, qual è la cosa più evidente che in Italia balza subito all'occhio come cosa negativa se si vuole investire qui? Beh, tutti ci dimentichiamo che l'Italia è un'economia in declino. Per cui a nessuno piace investire in un'economia che scende. Questo è un punto. Generalmente agli investitori piace investire in un'economia in crescita. Questo ci dimentichiamo spesso. Questa, di è, questa è la base. È la lettera A. La lettera A. Questo spesso. Poi bisogna un po' differenziare. Se sono investimenti industriali, picchia moltissimo il lavoro, la sul lavoro, picchia moltissimo la burocrazia, sì, picchia, si dice anche la giustizia, io non lo so perché possono fare degli arbitrati anche fuori dall'Italia, io questa cosa qui sono un po' smussato, invece sotto l'aspetto immobiliare la burocrazia è pazzesca, sì. Poi io conosco anche molta gente, americani, che aveva un caso in Italia, maledicono il momento che l'hanno comprata, perché arrivano giù in Italia, devono andare a firmare l'antimafia, sono tutte cose che seccano, capito? Avere immobili in Italia comporta un sacco di rogne, capito? La burocrazia, no, vediamo, non so, Alison Dayton so che è spesso in Italia, perché ha una casa in Umbria, è davvero così, cioè avere una casa anche in Italia, Alison Dayton, è un po' un inferno di burocrazia, di documenti? È impegnativo, sì. È impegnativo. Io ho anche un albergo in Italia che ha funzionato da 10 anni e devo dire ho avuto un'altra esperienza quando ho fatto l'albergo in Umbria. A Città della Piena. Quindi, sì. Quindi dipende dal posto, eccetera, ma era in quei giorni quando ho investito lì, era molto importante a me e ancora è la cosa più importante, capire le regole, le prescrizioni tecniche, che tutto è chiaro, perché quando uno investe uno deve sapere tutto in avanza prima di decidere. Ma è chiaro, già uno ha il rischio dell'investimento, se almeno tutto quello che c'è intorno non è chiaro, cioè uno non va a investire dei soldi, questa è la questione. Mi faccia capire, per concludere, intanto io la ringrazio, lei cosa chiede in concreto alla Regione Puglia per riaprire questo tavolo, per rimanere qui? Per per me devo avere un'indicazione che è un forte interesse dalla parte della regione che vogliono rivedere il progetto, non ricominciare a capo, ma rivedere il progetto come siccome abbiamo vinto il TAR, sappiamo che abbiamo fatto tutto bene per quanto riguarda il progetto, ma rivederlo per forse fare i cambiamenti necessari per trovare una soluzione. Certo, allora lei dice tra l'altro abbiamo vinto il TAR, ma si sa anche qui burocrazia italiana, c'è il Consiglio di Stato, insomma c'è l'appello e quindi chissà, giusto per rientrare nella questione della giustizia. Allora io ringrazio Alison Dayton, dopo la pubblicità ripartiamo, c'è Alberto Forchielli, ci raggiungerà anche la vicepresidente della regione Puglia per cercare di capire insomma intanto questa vicenda, ed Alberto Forchielli vorrò capire anche davvero qualcosa ci ha già detto, se l'Italia è in grado di fare le cose da sole, ha detto Renzi le può fare le cose, ma se le fa perde il consenso e allora questo è un circolo vizioso, come se ne esce? 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:37 minuti. Voglio salutare, ci ha raggiunto la vicepresidente della Regione Puglia, assessore anche al territorio, Angela Barbanente. Buongiorno, vicepresidente. Buongiorno, grazie, buongiorno grazie per essere con noi. Forchielli, allora, ha molto colpito già su Twitter quello che tu hai detto, cioè Renzi ha il consenso perché le cose non le fa, perché nel momento in cui le fa lo perde. Beh, è un circolo vizioso, cioè allora da presidente del Consiglio uno che può fare? Praticamente poco, infatti lo dico sempre, il problema non è Renzi, il problema sono gli italiani. Al di là di tutti i suoi del fatto che gli fanno iniezione di pentotal per farlo parlare tanto, al di là del fatto che come capo Boy Scout ci sta gestendo col manuale delle giovani marmotte, ma al di là di questo lui deve, se è un bravo politico, sta al vento, cerca di mantenere il consenso per mantenere il consenso. Ma poi la tragedia è che secondo me che tutte queste idee della troica non esistono, non c'è nessun paese europeo che abbia voglia di mettere le mani in Italia. Noi siamo una specie di Chernobyl, addirittura. È una roba, sì, una roba da metterci 3 metri di cemento sopra, poi da lasciarla lì. Ci danno la liquidità, ci tengono bassi i tassi, non consentono che il nostro debito cresca. Nel tempo di 10 anni, con la crescita del PIL mondiale, la crescita più che proporzionale del credito mondiale, il debito italiano sarà una cosa gestibile. Intanto gli stranieri escono dal debito, fanno la cintura sulle banche. Ormai non ci crede più nessuno all'estero. Insomma, quella... cioè, prima era Berlusconi, sì. Poi dopo è arrivato Monti, delusioni di Monti, poi è arrivato Letta che era un bravo ragazzo, poi dopo è arrivato Renzi che era giovane e pimpante, ma ormai da fiduciosa attesa siamo shiftati in un'attesa, ecco. Come si sa, poi su questo Alberto sai che tu ti attiri anche molte critiche a dire ma insomma gli italiani sono il problema, allora che cosa dovremmo fare, andare via tutti? Una volta hai detto andare via tutti, soprattutto i giovani, e vivere di rimesse come in Bangladesh, no? Che voglio dire? Responsabilmente io ce l'avevo moltissimo con Letta, perché diceva tutto, c'era la ripresa dietro l'angolo, sono irresponsabili quelle affermazioni, capito? Non puoi illudere i giovani, sono irresponsabili, non ci sarà crescita in questo paese perché ci sono problemi strutturali, perché non può contrarre altro debito, perché siamo vissuti di debito, perché la Germania non è disposta a fare una politica espansiva, fa pareggio di bilancio, siamo anche industrialmente non competitivi, per cui bisogna dire la verità ai giovani, devono evacuare, può darsi che vivremo un bel paese, può darsi che i ricchi del mondo decidano di venire qui a vivere, nonostante tutti i problemi di burocrazia. E se non dovesse aumentare la criminalità, si potrebbe invece che fare progetti ambientalmente discutibili a volte, no? Già che abbiamo già rovinato le nostre coste, si potrebbe fare del sud soprattutto un'area di casinò, gambling, Baroiana libera, come hanno fatto in Colorado, capito? Si potrebbe anche potrebbe essere la soluzione per rendere appetibile l'Italia. Sì, si potrebbe fare dell'Italia una grande divisa anche, capito? Però ci vogliono delle cose creative, non mi è stato a dire. Delle cose non creative. Ci crede nessuno. Questo... Oh, guarda, la settimana scorsa ero con 14 dei più grandi investitori tedeschi a Brandt. E che ti hanno detto? Mi ha investito... Ah no, se addirittura, capito, loro vedono il loro raggiunto pareggio di bilancio come un totem, per cui non è possibile illudersi che i tedeschi facciano una politica. Tocchi, no? È un totem. È chiaro. Dopodiché l'idea che l'Italia possa indebitarsi oltre è una fantasia, perché non ce lo concederanno mai, perché altrimenti il debito... Se fosse per loro noi andremo avanti ancora 10 anni, ci aiutano un po' con le spread, ci temono il costo di debito basso, però traccheggiamo per altri come al solito un po' come i paesi dell'est, finiamo come Praga, ecco appunto, tenuti un po' per le redini, uso questa espressione edulcorata dai tedeschi. Però fammi andare, vorrei allora capire un attimo da Angela Barbanente. Buongiorno vicepresidente. Allora la regione Puglia è ovviamente osservata speciale, no, in questa vicenda che è stata catapultata sui giornali, ma davvero voi non volete un investimento da 70 milioni di euro? No, guardi, proprio quello che noi vogliamo sono gli investimenti nella nostra regione e soprattutto gli investimenti esteri. Lo dimostra la politica che noi abbiamo realizzato in questi 10 anni di governo regionale. Abbiamo attratto 3 miliardi di euro di investimenti dal 2007, con 8.700 imprese coinvolte, abbiamo rapporti con Bosch, con Getrag, con aziende multinazionali, abbiamo dato incentivi importanti, ma anche sostegno alla formazione, all'internazionalizzazione. Quello che addolora di più è che noi in questi anni abbiamo anche lavorato per velocizzare le procedure, soprattutto in materia urbanistica. Noi approviamo i piani urbanistici generali in 180 giorni perentori, col silenzio assenso. Se la regione non si pronuncia, il piano è approvato. Quindi, qual è il problema con questo progetto? Io temo, perché io ho ascoltato la signora con molta attenzione, io temo che alla signora non sia stato detto tutto, che non siano stati chiariti a livello locale, probabilmente nell'interlocuzione col comune, perché noi abbiamo interloquito molto tardi con la signora, non hanno chiarito tutto. Quell'area è un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico anche da un decreto ministeriale. Però al TAR hanno avuto ragione. Al TAR hanno avuto ragione, ma non è stato colto un aspetto importante che la signora deve comprendere. Prima del parere sfavorevole della regione c'è stato un parere sfavorevole del ministero. Nell'anno 2010 il ministero ha detto là non si può realizzare quel progetto. Però capisce vicepresidente, le chiedo questo. Se anche la regione avesse dato un parere favorevole andando contro legge, perché la regione deve adeguarsi al ministero, al parere ministeriale, avrebbe avuto torto. Non avremmo cambiato le ma cose. Capisce, quindi, vicepresidente, che è proprio questo, cioè un investitore che viene dall'estero e che deve avere a che fare con un comune che dice magari di sì, però lei dice al comune non gli hanno detto la verità, perché al ministero c'era il no, la regione quindi dice no. Guardi, però il TAR le ha dato ragione, e uno che fa? È quella incertezza che uno dice, ma io me li tengo i soldi, cioè non si capisce niente. Ma l'incertezza nel caso di specie deriva dal fatto che non si è assunta tutta la documentazione necessaria per capire lì cosa si poteva fare. Ma appunto, se io sono un investitore non so se posso costruire, questo è il dato di fatto. Uno dice di sì, uno dice di no, uno... Guardi, noi abbiamo portato le carte, come forse sapete, alla Procura della Repubblica. Certo. Perché lì nel 2009 c'è stato un incendio già denunciato di ulivi monumentali. Noi non possiamo giocarci il nostro patrimonio ambientale. C'è stato un parere sfavorevole della Commissione Ambiente del Comune perché quell'area avrebbe anche problemi idrogeologici. Quindi noi siamo in un periodo nella nostra regione nella quale piangiamo i morti sul Gargano. Su questo bisogna essere chiari e rendere consapevoli. Su questo sì. Progetti ambientalmente discutibili non vanno approvati. Ma questo, il Mezzogiorno in passato ha detto troppi sì e ora si trova con un territorio dissestato. Ogni tanto la politica deve avere il coraggio di dire di no. No, ma è tutelare il territorio, questo certamente. D'altra parte, ripeto, non è io non voglio dare né ragione, non so niente di questo progetto dal punto di vista tecnico. Rimane da capire che un imprenditore dice ha ricevuto dei sì da qualcuno che magari ha sbagliato, ma probabilmente ha sbagliato, e poi riceve dei no, poi fa ricorso al TAR e ha ragione, poi il Consiglio di Stato si vedrà. Ecco, è questa l'incertezza nella quale uno dice: ma sapete che c'è? Ma io investo da un'altra parte. Eccoci qui, le 8:49, insomma, Alberto Forchielli qui. Cioè, io ripeto, io non ho un'idea compiuta di chi abbia ragione, le carte in procura, ci dice la vicepresidente, si vedrà. Però è questa situazione in cui ognuno dice una cosa, insomma, che porta le persone a non investire. Quegli investitori, quegli investitori tedeschi, cosa dicono? Investirebbero in Italia in questo momento? Beh, l'unico pezzo dell'Italia investibile sono le aziende italiane che esportano. Tieni presente che il 92% delle imprese manifatturiere italiane è esportato, per cui un investitore straniero prende un'impresa italiana che esporta il 70% della produzione e dice: beh, questa azienda non è a rischio Italia, è messa in Italia, spara fuori il 70%, un domani l'Italia salta, la trasferisco da un'altra parte, insomma. Quindi quel settore della media impresa italiana è molto ricercato. Ovviamente il rischio sovrano neanche se ne parla, il rischio sovrano se lo prendono i cinesi, capito? Perché devono entrare, ma le belle aziende no, le belle aziende italiane gli investitori le cercano. Quelle che esportano, però, quelle che esportano, sì, che hanno l'ancora di salvezza finale, la delocalizzazione. Insomma, sì, sempre... Alino, ma no. Sono poche le aziende che vanno bene che non esportano. Per definizione, beh, le aziende che vanno bene esportano. Cioè, che il mercato italiano è quello che è, capito? Cioè, ormai che poi c'è Del Rio dice che scalano i consumi alimentari per via della crisi. Sì, se faceva il Ramadan, è un po', capito? Però la verità... No, adesso no, che quello è un altro problema, tra l'altro, che abbiamo se leggi i giornali, secondo alcuni con certi tipi di questioni. Però non so se hai letto oggi Il Messaggero, racconta per esempio che Padoan sta pensando ad aumentare l'IVA sui beni di prima necessità, che in Italia è il 4%, unicum in Europa, in genere al 5%, pane, pasta, riso, latte, giornali. Guarda, la ricetta di Padoan era anche quella di spendere gli 80 euro. Secondo me non lo prenderebbero neanche la prova del cuoco. Sì, poi, io, guarda, Padoan farebbe bene a chiamare 4 forestali su dalla Calabria, che sono più numerosi dei tronchi d'albero, per disboscare un po' le partecipazioni pubbliche. Ecco, quello sarebbe interessante. Ah, beh, quello si spera che lo si faccia, no? Le partecipazioni nei comuni. Sì. Nei comuni. Però vabbè, di questa storia, insomma, tu che giudizio dai da osservatore esterno di quello che hai sentito, sia Alison Dayton sia la vicepresidente che ti ascolta della Puglia, no, che dice bisogna preservare il territorio? Spesso distrutto il territorio. No, io su questa vicenda pugliese sono con la Regione Puglia, perché gli investitori sono dei gran furbastri, cioè, ragazzi, non pensate che siano degli agnelli, capito? Poi in Italia abbiamo già devastato abbastanza, abbiamo devastato tutte le coste, nel dopoguerra abbiamo costruito malissimo, ok? È inutile che stiamo a togliere degli olivi secolari per metterci dei muri, è come il marito che si taglia il pisello e fa dispetto alla moglie, capito? Ossia, non possiamo massacrare così il paesaggio. E la Puglia, devo dire, è sempre stata molto aperta, fin troppo aperta, ha fatto un sacco di investimenti solari, per cui io uomo libero, ma stavolta io sto con la presidentessa. Ah, va bene, vicepresidente Alberto Forchielli è così, è uno franco, voglio dire, quello che i suoi giudizi sono sferzanti, ma quello che pensa dice, quindi in questo caso non so se le fa piacere, dice. Guardi, fa bene la regione Puglia. Sono molto contenta che cresca la consapevolezza che se il Mezzogiorno svende le proprie risorse, e sono le risorse ambientali, sono le risorse più importanti di cui noi disponiamo, assieme alle risorse umane di intelligenza e competenza, il Mezzogiorno non ha futuro. Qui voglio dirlo e sottolinearlo di nuovo, non è questione di mala burocrazia, c'è una certezza, quell'area è un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico con un decreto ministeriale e l'intervento è in contrasto col piano paesaggistico della regione. Noi non avremmo potuto diversamente comportarci. Il dialogo è aperto, ma quell'intervento distrugge un uliveto secolare in pregio alle leggi dello Stato e della regione Puglia. Da questo punto di vista, che venga, guardi, io pensavo che saremmo stati apprezzati, perché sia che venga a parlare con noi la regina d'Inghilterra, come ha detto il presidente Vendola, sia che venga a parlare con noi l'ultimo cittadino in Puglia, le leggi si rispettano. Va bene, no, ma infatti devo dire, poi al TAR succederà evidentemente che il Consiglio di Stato darà ragione. Io nel ringraziarvi, Alberto Forchielli, insomma, in finale ci vuoi lasciare, ma giudizi ne hai già dati, urticanti, non voglio chiederti oltre. Una cosa che faresti domani, che Renzi può fare domani, una, visto che... Sì, eliminare il TAR. Eliminare il TAR, ecco, sì. Giusto, e quindi anche il Consiglio di Stato, immagino. Magari, capito? Tanto quella è una fonte di ritardo pazzesca, poi tutte le volte vai a fare ricorso, va al contrario, per cui le controversie non più. Eliminare il TAR, grazie, vi saluto qui, grazie ad Alberto Forchielli, ti troviamo presto, spero prestissimo, ringrazio anche Angela Barbalente, vicepresidente della Regione Puglia, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi diamo appuntamento a domani. Ricordate, Alino Milan, questo è il mio profilo Twitter se mi volete seguire. A domani, ciao, 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.